Palla Spicchi di Dario Ricci. Eccoci qua, squadra di Pallaspicchi come al solito al completo, con Roberto Scaltriti in regia e Giorgio De Luca in redazione, per raccontarvi tutto di questa quinta giornata che apre ufficialmente la crisi di Milano. Milano sconfitta a sorpresa in casa dalla Trenkwalder Reggio Emilia 66-78, che rimedia la terza sconfitta in campionato su 5 giornate. Beh, decisamente troppe per chi vuole puntare al titolo. Giornata che vede la marcia inarrestabile di Sassari, che passa anche a Pesaro e resta capolista solitaria per il momento, visto che domani Varese sarà impegnata nel derby con Cantù alle 20:30 e poi l'altro posticipo sarà Biella-Siena, comunque stuzzicante. Intanto però onore a Varese, che conquista la quinta vittoria consecutiva ed è ancora imbattuta. Procede con passo spedito anche la marcia di Roma, che travolge Caserta, frena ancora Bologna sconfitta ad Avellino. Eccoli però tutti i risultati di oggi, a partire dall'anticipo di mezzogiorno che torna proprio con questa giornata. Enel Brindisi batte Umana Venezia 63-82, anzi no, scusate, Venezia vince a Brindisi per 82-63. Scavolini Banca Marche Pesaro, Banco di Sardegna Sassari 90-100, Sidisgas Avellino 6-3 Bologna 87-77, Acea Roma Juve Caserta 86-57, il risultato poi a sorpresa è a 7 Emporio Armani Milano, Trenkwalder Reggio Emilia 66-78, Sutor Montegranaro Vanoli Cremona 74-80, domani sera Varese Cantù, Cimbario Varese contro Chebolletta Cantù alle 20:30, sempre alle 20:30 Angelico Biella Montepaschi Siena, per una classifica che vede Sassari in testa con 10 punti a quota 8, Varese 6 punti per Cantù, Siena, Roma e Bologna. Quota 4 il gruppone con Pesaro, Reggio Emilia, Avellino, Cremona, Venezia, Caserta e a sorpresa Milano. Chiudono con 2 punti Biella, Montegranaro e Brindisi. Allora, dicevamo della crisi di Milano sconfitta al Forum da Reggio Emilia, e proprio subito al Forum andiamo con Roberto Nardella. Roberto, che atmosfera si respira intorno a questa Olimpia che partenza più deludente non poteva avere? Buonasera. Buonasera, da parte mia qui dal Forum di Assago. L'atmosfera che si respira qui è davvero nera a causa di questa sconfitta 66-78 per la Trenkwalder Reggio Emilia sull'Emporio Armani Milano, al di là appunto del 4-31-3 dell'Olimpia e delle 18 palle perse, come diciamo anche il Corriere, del Corriere della Sera Werther Pedrazzi, la sensazione è quella di una Milano per ora grande incompiuta. Più che altro c'è una grande perplessità, non so se la grande impresa questa sera, questo pomeriggio, l'ha fatta Reggio o l'ha fatta Milano. Milano in negativo, non era facile non giocare per tutta la partita, non era facile non accendersi mai, non era facile che uno come Cook o come i vari Elfo Gentile subissero 23 punti da Taylor, che la cosa più curiosa che rappresenta è quello di avere un fratello gemello che gioca, mi sembra, in Francia. E non era facile che agli avversari si lasciasse il record dei rimbalzi della partita a Cinciarini, che è un playmaker. Tutto questo non era facile. Arrivati a meno 4, 54-58, mi sembra di ricordare, qualsiasi squadra che ha la levatura e la caratura presunta di Milano avrebbe scatenato l'inferno, non ci sarebbe stata più partita. Invece sono andati ancora sotto, perché probabilmente non hanno vento di passione, non hanno vento d'orgoglio nella loro anima. Una brutta roba. Adesso ci diranno naturalmente che è un episodio, che loro non ragionano in questo modo, come ho già sentito dire dopo la partita di Avellino, che mi sembra questo un replay, che loro non ragionano così sugli episodi, che è semplicemente un passo falso in attesa di costruire il futuro. Beh, basta che non facciano come Penelope, che una volta fanno una partita buona e poi quella dopo la disfano. Decisamente così mi sento di condividere appieno le parole del collega Werther Pedrazzi del Corriere della Sera, se non ci sono altre richieste. No, Roberto, resta un attimo perché vi rubo altri 30 secondi per chiedervi le responsabilità di Scariolo, perché abbiamo visto, questo è il roster di Scariolo, non c'è niente da fare, è un roster che è stato confermato in molti giocatori proprio per dare il senso di una squadra in costruzione, per mettere radici a questo gruppo. E quali possono essere le responsabilità? Berger, in 30 secondi dallo studio mi chiedono quali possono essere le ragioni, le colpe, diciamo così, di coach Sergio Scariolo. Ah, sai, non mi sono mai trovato bene nel ruolo di giudice, perché per non dico giudicare ma formulare un'opinione bisognerebbe conoscere le cose dall'interno. Certo, quello che si vede dal di fuori e che è diventato ormai un sistema è che quando un giocatore entra in partita, o abbiamo conosciuto purtroppo per età tanti giocatori, qualcuno usava l'espressione quando il giocatore è in quel momento che vede canestro come vasca da bagno, non lo toglievano mai. Ecco, Sergio sistematicamente ogni volta che un giocatore entra in partita, è successo prima con Borussia, è successo questa sera con Fozzi, sì, l'artefice migliore con 6 punti consecutivi di quel parziale momentaneo riavvicinamento, lui li toglie e li mette in panchina. Forse lui teme di così sfiduciare gli altri che sono in panchina, forse vuole raggiungere l'onorevolissimo obiettivo di avere tutti i 12 protagonisti. Secondo il mio modestissimo parere sbaglia, perché così non fa contento nessuno, non fa contento quello che toglie, non fa contento quelli che mette. Sì, sicuramente Werther è assolutamente una delle responsabilità di coach Scariolo, che si sta costruendo, ma in questo momento servono anche risultati. Grazie a Roberto Nardella e a Werther Pedrazzi del Corriere della Sera. Voliamo subito a Roma, perché c'è una Cea Roma che vince e convince, la squadra low cost l'ho ribattezzata da inizio del campionato, Fabrizio Fabbri con un ospite davvero importante oggi all'esordio in un nuovo ruolo. Fabrizio. Sì, abbiamo il neo capitano Gigi D'Adome, ma la prestazione di squadra della CEA Roma, Gigi, è stata una prestazione eccellente, forse dire eccezionale è un po' esagerato, ma l'86-57 finale dimostra la forza di una squadra che ha reggito nel migliore dei modi. Sì, è una squadra che ha messo intensità per gran parte della partita ed è finita in crescendo, controtendenza forse a Caserta che aveva le rotazioni più ridotte delle nostre, ne abbiamo approfittato, siamo saliti in intensità in difesa, abbiamo fatto tanti contropiedi, siamo ragazzi che veramente godiamo di più di un assist che di un canestro personale, e questo fa bene alla nostra pallacanestro, e penso che stasera si sia visto. La gente si è divertita, una partita fatta di schiacciate, di tanta corsa e intensità, ma quello che sorprende leggendo lo scout non sono né i 18 punti né i 7 rimbalzi, ma i 6 assist di Gigi D'Adome, un playmaker mancato. Sì, penso sia record in carriera, però ripeto, quando si gioca bene ci sono delle idee chiare, c'è la voglia di tutti di passarsi la palla, perché so che quando sarò libero io me la passeranno a me, quindi e tutti la pensiamo così, è bello veramente giocare in squadra, è bello quando chiaramente la palla entra, oggi abbiamo fatto grandi percentuali, e questa è l'onda che dobbiamo cavalcare per tutto l'anno. Ci saranno momenti più difficili, però adesso ci godiamo questa bella vittoria contro una squadra che le tifoserie sentono particolarmente. Il palazzetto è stato finalmente veramente, si è sentito quanto si è divertito, quanto era caloroso alla fine. Noi abbiamo bisogno di loro e loro hanno bisogno di noi per accendersi. Per chiudere, tu hai ricevuto la fascia figurata di capitano nel basket da una persona a cui vuoi bene, a cui la gente di Roma vuole bene. Due parole per Alessandro Donolli. Lo conoscete tutti meglio di me, perché è qua da sempre praticamente. Io penso che un gesto così soltanto i grandi uomini lo sanno fare. Lui ha scelto me, l'ha ribaduto, che a un altro non l'avrebbe fatto. Però ho bisogno di lui ancora e mi sta vicino come mi è stato vicino in questi 4 anni, in questo ulteriore passo della mia carriera da capitano, che mi sta vicino, che mi dia consigli e che mi tenga sempre sotto la sua ala. Perfetto, ringraziamo Gigi Datome. Il basket è uno sport da uomini veri, lo dimostra appunto, lo dimostrano le parole di Datome. Per quanto riguarda Caserta, problemi in cabina di regia, si sa con il taglio di Wise ci sono problemi in regia, mordente infortunato, Sacripanti ha bisogno presto di qualcosa nel ruolo di playmaker e dovrà risolvere al più presto il problema. Virtus Roma, Acea Roma, batte Juve Caserta 86-57 dal palazzetto dello sport, è tutto. Perfetto Fabrizio Fabbri, grazie a Gigi Datome. Voliamo subito ad Avellino, dove c'è Carmelo Presti Simone per raccontarci questo bel successo di Avellino su Bologna, anche qui un ospite protagonista oggi sul parquet. Buonasera Carmelo. Sì, ciao Dario, buonasera, bentrovati qui da Avellino, dal Pala del Mauro. Sidigas che batte 6-3 Bologna 87-77, una gran bella partita quella degli Irpini, che vincono questo match con una percentuale straordinaria da tre punti, 16 su 24, 67% da tre punti, con Jeremy Richardson, autore di 23 punti, con un 6 su 8 da tre punti, davvero una partita straordinaria dell'americano, bravo anche Mavreides con 14, Dragovic anche lui con 14, anche Valerio Spinelli che ha realizzato 9 punti e che ho qui ospite con me, e a cui chiedo, Valerio, insomma, Avellino che batte le grandi, batte appunto la 6-3 Bologna, e che squadra è questa qui, insomma, si riesce a capire che quadro puoi dare di questa squadra? Beh, è una squadra un po' strana, perché perdiamo contro le squadre diciamo un po' più scarse tra virgolette, mentre con Milano e con Bologna facciamo delle ottime prestazioni. Speriamo di continuare domenica prossima perché ci aspetta Cantù, però godiamoci questa vittoria perché abbiamo giocato un'ottima pallacanestro, un'ottima difesa contro una squadra ben organizzata. Ecco, prossima settimana mancherà molto probabilmente Warren, oggi infortunato. Su Hardy ancora c'è da avere una risposta riguardo il passaporto belga. Si parla di un possibile arrivo di Marcus Green, di un ritorno di Marcus Green ad Avellino. Tu che cosa sai? È il giocatore che serve a questa squadra? Beh, penso che Marquis serve a tantissime squadre, però ad Avellino lui ha fatto sempre ottime prestazioni, è amato dalla città, dal pubblico e dalla società. Non so se dovesse arrivare, noi l'aspettiamo, però bisogna chiedere alla società. Adesso siamo questi, abbiamo delle difficoltà con Hardy e con Warren, però ci alleniamo durante la settimana in maniera molto concentrata e dura per poter fare qualche colpaccio fuori casa. Dario, con Valerio faccio anche una battuta su Napoli. Napoli che è stata esclusa dalla Lega 2, ha fatto ricorso al TNAS, all'arbitrato del CONI, per cercare di rientrare nel secondo campionato nazionale. Valerio è stata una bandiera per il Napoli Basket, ha vinto la Coppa Italia con la Carpisa nel 2006. Non è possibile, Valerio, insomma, lanciamo un warning, un allarme: non è possibile che la pallacanestro perda ancora Napoli in quattro anni, quattro fallimenti. Questo potrebbe essere il quarto fallimento. Guarda, sinceramente non ho parlato con nessuno dei miei amici che ho in società perché mi piange il cuore. Purtroppo già dall'anno scorso parlavo con Bartorci e altre persone che mi garantivano della società seria e tutto. Io chiedevo solo questo da tifoso, perché sono napoletano e quindi quando sono a casa la domenica vado a vedere sempre le partite. Spero che adesso venga riammessa, e poi Napoli merita una grandissima squadra in Serie A di calcio, ma la merita anche con la pallacanestro. Non è difficile, cerchiamo che qualche persona potente può aiutare questa società, perché i tifosi veramente ne sono tanti, aspettano il grande basket a Napoli. Dario, a te. Perfetto, perfetto Carmelo Presti Simone da Avellino, e grazie a Valerio Spinelli. Eccoci qua, seconda parte di Palla Spicchi. Ve l'avevamo promesso, ampio spazio anche alla vittoria di Sassari a Pesaro, 100-90, anche perché Sassari per il momento è capolista solitaria. Allora, nel tabellino del Banco di Sardegna spicca l'eccezionale prova di Buzzi Thornton, 32 punti in 35 minuti, 7 su 8 da 2, 6 su 10 da 3, 5 rimbalzi, 5 perse, sì, ma 8 recuperi e 3 assist, valutazione, beh, fate un po' i conti a occhio. Il risultato finale dice 40-21 per Travis Diner, che come al solito ci mette anche 5 assist. 3 perse e 4 recuperi, mentre Drake piazza 16 punti e 7 rimbalzi, specialità della casa malgrado la statura non eccezionale. E per completare il quadro arriva la doppia doppia di Easley sotto canestro, 15 più 10 rimbalzi per una Sassari che tira col 62% da 2, pensate Pesaro fa addirittura meglio, 72% da 2 punti, 45% da 3, eppure i marchigiani perdono malgrado i 20 punti di Cavaliero, i 21 di Barbour, i 18 di McLamont e i 14 di Hamilton, Amoroso lo ricordiamo fuori squadra. Stefano Valenti, ben trovato. Beh Stefano, grande Sassari e per carità onore al merito, ma qua l'argomento del giorno è la crisi di Milano, io l'ho già battezzata, crisi è, no? Buonasera Stefano. Ciao, buonasera. Sì, effettivamente la partita di stasera credo da un certo punto di vista non andrebbe neanche commentata, dall'altro ovviamente sì, perché insomma Reggio Emilia è squadra che lotterà comunque per salvarsi con l'obiettivo di farlo prima possibile, squadra che passa dal meno 30 di Roma a vincere a Milano guidando con grande sicurezza fin dall'inizio, e Milano che si rifugia nel tiro da 3, 31 tentativi da 3 punti, solo 4 segnati contro 35 tentativi da 2, come potrebbe fare una squadra di bassa classifica che non trova il modo di rientrare in partita fondamentalmente. Quindi, ecco, ma ti chiedo Stefano, problema di roster, problema di mentalità, io non ci credo a entrambi, perché è impossibile che un gruppo così assortito, con quell'allenatore, con quella struttura societaria, la più solida in questo momento del nostro campionato, esprima così poco anche dal punto di vista del carattere. Sono d'accordo, evidentemente però manca la chimica, lo sappiamo, abbiamo avuto esempi di squadre fatte con grande ambizione. Ma questa è la squadra di Scariolo però, questa è la squadra di Scariolo. Questa è senza dubbio la squadra di Scariolo, dal mio punto di vista questa è una squadra che manca di un leader. Omar Cook l'anno scorso aveva dato qualche segnale interessante, ma non probabilmente in grado di reggere quel che serve a Milano. Allora, la riflessione che gira da tempo è che se Milano ha certa disponibilità economica deve andare sul mercato e portare a Milano Diamantidis. Ecco, questo è il giocatore che è il giocatore leader, il giocatore che magari è in grado di mettere assieme una squadra anche con un roster meno profondo da un certo punto di vista. Questa è una scelta che comunque a Milano non hanno fatto, convinti che da un certo punto di vista la solidità già mostrata lo scorso anno nell'ambito del ranking nazionale e l'atteso passo indietro di Siena avrebbe potuto evidentemente bastare. La stagione è ancora lunga, ma in questo momento è evidente che a Milano non basta giocare un'Eurolega apprezzabile al di là dell'ultima sconfitta casalinga, perché quello che sta succedendo in Italia è fonte di polemiche e di critica molto più che se Milano avesse compiuto risultati rovescio, cioè bene in Italia ma magari malino in Europa. Quello certo. Che Milano sta perdendo per strada in Italia obiettivamente non è accettabile, ritardi di chimica a parte. Carlo Genta, ben trovato, buonasera. Ciao, allora domani ti troviamo in tutti i convocati alle 14, lo ricordo, e immagino che parlerai anche di basket, visto certo. la ricchezza del menù anche serale. Dicevamo, con Stefano Valenti sarebbe l'ideale portare Diamantidis, ma tanto per citare e restare nel campo degli ex Panathinaikos, a questo punto perché non Obradovic, visto che è una voce che è già circolata? Ma secondo me non è un problema di allenatore, ha ragione Stefano, è un problema di leadership che questa squadra non ha. Mi sembra che sia incredibilmente simile l'avvio di stagione di Milano a quello dell'anno scorso, quando il gruppo, la squadra non era così forte, il gruppo era completamente nuovo, adesso questi due alibi non ci sono più, perché comunque è un gruppo mediamente consolidato, in cui sono stati conservati dei giocatori, è stata presa un'altra prima punta come Langford. Continuo a domandarmi se la leadership offensiva sia di Langford o di qualcun altro, però o di Ayrton per esempio, però il problema mi sembra quello che ha perfettamente sottolineato Stefano, è la squadra che manca di un leader. A me Omar Cook non ha mai convinto, eppure è stata la prima scelta di Scariolo, prima scelta, primo giocatore preso da Scariolo, evidentemente lui ci crede molto o non vuole sconfessare questa sua scelta. La verità è che comunque non è un playmaker in grado di guidare un gruppo di questo tipo. Siamo sempre lì, a Milano manca un leader, lo ripetiamo da molte stagioni, lo ripetiamo da molti anni, manca un leader tecnico, manca un leader emotivo soprattutto, cosa che Diamantidis è un sogno, no? Lo so, leader, però poi è il leader per eccellenza. Però poi magari è chiaro che non ce ne sono molti giro. Però uno varrebbe la pena prima o poi di andarlo a prendere. Sì, e poi insomma, per scoprire quantomeno se non è l'area di Milano a spegnere certe qualità e certi entusiasmi. Senti, domani sera c'è questo Varese-Cantù che è un po' la partita nobile del turno. Cosa aspettarci, anche alla luce della crisi di Milano, che risposta può arrivare da questo derby? Varese-Cantù diventa una partita molto interessante, ovviamente uno dei derby classici tra i più sentiti, anche troppo. Varese mi ha fatto una grande impressione domenica scorsa. Oggi abbiamo visto Bologna perdere ad Avellino, Sassari vincere ancora in trasferta a Pesaro. Continuiamo a trovare queste strane accoppiate, questi strani terzetti in testa alla classifica. Varese-Cantù sarà senz'altro una partita di grande sentimento, sarà una partita molto emotiva. Vedo Varese favorita, se non altro perché Cantù è una squadra che mi pare ancora in rodaggio ed è alle prese con un Eurolega che affatica non poco, però la classica partita da lacrime e sangue, come direbbe Dan Peterson. Assolutamente, e ce la godremo. Allora, un attimo di spazio alla Lega 2 con i risultati della quarta giornata: Trieste Scafati 81-61, Verona Barcellona 75-71, Ferentino Forlì 87-68, Capod Orlando Veroli 61-65, Imola Iesi 50-65, Bologna Pistoia 68-66, Brescia Casale Ferrato 63-73, riposa Trento in attesa di conoscere per filo e per segno il destino di Napoli. Flavio Tranquillo, ben trovato. Allora, ti chiamo subito in causa sul tema del giorno, la crisi di Milano, poi però parliamo di NBA, Flavio, preparati. Buonasera. Ma la crisi di Milano, ho sentito quello che dicevate voi, posso aggiungere la testimonianza di uno che sta tornando dal forum. È tutto plausibile, non è tanto plausibile venire al quarto periodo da 30 punti subiti contro il CAC Laboral, che naturalmente ha dei grossi meriti, fare il primo canestro della partita con Hairston e poi prendere 13-0. Questo è meno plausibile, soprattutto un 13-0 fatto di mollezza, di poca intensità, laddove proprio quelle corde era andato a vellicare o a provare a vellicare l'allenatore al termine della partita. È una squadra che sorprende da questo punto di vista, poi tutto il resto è possibile o impossibile, però questo è un dato nudo e crudo che sottopongo così all'analisi. Di dati di questo tipo ce ne sono a bizzeffe in questo inizio incredibilmente negativo di Milano. Flavio, i nostri ospiti, alziamo un po' il livello, siamo alla vigilia della partenza del campionato NBA, martedì finalmente si parte, quest'anno in orario, non ci sono serrate per fortuna. Una cosa aspettarci da questa stagione, da questa sfida al trono di Miami di Sua Maestà LeBron? Aspettarsi l'inaspettato, come dicono in America, expect the unexpected. Direi che è un campionato in cui una squadra finalista si priva di una pedina dell'importanza di James Harden poche ore prima del via, ci dice che è un campionato fatto in una maniera particolare e soprattutto un campionato in divenire, perché questa scelta di Oklahoma City, assieme ad altre mille considerazioni, è figlia anche, se non soprattutto, di quel nuovo contratto che è stato partorito anche dal ritardo per la serrata della stagione passata. Quindi ci sono squadre che rischiano, diciamo, finanziariamente, come diremmo noi, come i Lakers, squadre che non possono rischiare come Oklahoma City, squadre che sono al limite come Miami, squadre che sono in là con gli anni come Boston e provano l'ultimo colpo. Io credo che sarà il grande motivo di interesse. Non sappiamo che cosa aspettarci, per 3 o 4 mesi andiamo proprio alla scoperta di questo campionato. E beh, insomma, comunque ci divertiremo parecchio, anche grazie al mercato che regala questi colpi a sorpresa. 30 secondi per provare a capire che stagione sarà per i nostri italiani. Ma intanto ai nostri italiani auguro di trovare una dimensione individuale, no? Perché noi ne parliamo sempre come se fossero un monoblocco, e in realtà sono tre giocatori diversi, tre ragazzi diversi, tutti splendidi, ma ognuno fa per sé. Diciamo, uno deve migliorare una metà campo per poter sfruttare quello che sa fare nell'altra, ed è Bellinelli, e gli auguro di farlo, anche perché se non lo fa a Chicago non lo fa da nessuna parte, ma se non lo fa di spazio ne avrà poco. L'altro ha una quantità di maggiori responsabilità e di maggiori attenzioni interne, si chiama Danilo Gallinari. 10 secondi per Bargnani, se no Roberto Scaltritti ci manda a casa. 10 secondi per Bargnani, a Bargnani auguro di fare 3 punti in meno, ma di incidere uno 0,2 in più. Con questo augurio vi saluto, anzi rimango qua, grazie a tutti gli ospiti per raccontarvi un po' di calcio.